E allora torniamo in diretta con grande gioia, finalmente quello che avevamo annunciato nel pomeriggio, cioè di ospitare delle donne che lavorano nei centri antiviolenza in Europa, si è avverato questa sera. E quindi abbiamo quattro ospiti e parleremo con loro. Si trovano qui a Roma, vogliamo ricordare perché? Tu sei preparata col programma? Perché ci sono un incontro organizzato da WAVE, che è la Donne in Rete contro la Violenza, che ha invitato in questi giorni a Roma delle donne che lavorano nei centri antiviolenza e che vengono da molti diversi paesi dell'Europa e anche del Nord Africa e del Medio Oriente. Dunque abbiamo come un po' di sorpresa nel nostro studio di oggi Kinan, che viene dall'Irlanda, Hermes da... potete salutare? You can. Hello. Ciao. Ciao. And Hermes from Kassel, Germany. Yes, merhaba. And Sibyl from Monaco. Hola, Rodolfo. And I don't remember your name. Excuse Gabriela. Me. Gabriela from Switzerland. From Switzerland. Abbiamo pensato che per una prima cosa voi potrete raccontare un po', presentarvi un po' e raccontare un po' il vostro lavoro e il lavoro delle vostre reti di centro antiviolenza nei diversi paesi da dove venite. We thought that maybe as a first things you can present yourself and present also your work and the work of the network of refuge from women's victims of violence in the different countries from where you come. Yes, thank you. My name is Kleene. Kleene Sadler, and I work with the Rape Crisis Network Ireland, which is the network organization of rape crisis centers in Ireland. Kenan, she's... I must say in Italian, yeah? No? Yeah. Allora, Kenan lavora con il Rete Nazionale d'Irlanda delle centri di crisi contro il stupro. I suppose we, as a national network, we support all the services that give frontline, that do frontline work with women and with men and children who have been sexually abused. And then as the national network, we collect all that information, we collect all that evidence, and we bring that to government and to policy and to the police, and we try to make it better, and we try to, I suppose, prevent sexual violence happening in the first place. Come Rete Nazionale d'Irlanda contro il stupro, loro fanno di un punto un lavoro di trovare il dinero, no? Per veramente poter dare un appoio alle le donne, anche bambine, ragazze e anche talvolta uomini contro l'abuso di se stesse. E poi secondamente raccogliono dell'informazione sul stupro e fanno passare questo alle istituzioni, politici, per poter cambiare la situazione per la gente, per le donne in Irlanda, e anche per fare meglio, no? La situazione delle donne e le persone. Yeah, and the important piece is that we believe that we can prevent, we can stop sexual violence. La cosa che non ho detto è che loro credono anche che è possibile a trovare delle cose a prevenire, a fare una prevenzione che non succede. What kind of work you do? Do you do something in the school for the prevention, for example? We do across the board. So we all our centers will do some work in schools. We will do some public work. We will do some work in the media, on the radio, on television. But we also work in with the government, and we work in different structures with different organizations. So, for example, we have developed an education program with the youth organization, which provides education for youth out of school. Giusto, facciamo anche delle cose nelle scuole, ma anche usiamo molto tutte le medie che sono disponibili a poter mostrare le informazioni che ci teniamo, e anche facciamo delle cose con delle strutture del governo, e anche abbiamo sviluppato un programma di prevenzione per le gioventù che sono uscite dalle scuole. And I suppose the other piece that we do is that we work with the government, we work with the national strategy, so we sit beside the civil servants and beside the government and other organisations like the police and like people who work in the health sector, and we work to have a united approach to preventing, because everybody must work together if we're going to prevent sexual violence. E l'altra parte è che è la collaborazione con il lavoro con il governo, vuol dire che facciamo anche delle cose con delle strutture, come strutture polizia, come la salute, servante civile, e nel settore della salute, che loro pensiamo che per veramente fare una prevenzione del stupro, della violenza sessuale, è importante che tutte lavorano insieme, trovano un appoggio? Appoggio comune. Appoggio comune. Do you have action against or directly against? Non solo against, verso. A reaction. For the men, for the violent men. You know, against men, against yes. or yes, we do both, because I'll say that again. We see our services will see men who have been sexually abused. Because unlike for example the refugees and the services for domestic violence in Ireland, which they are only for women, the sexual violence services, because of the nature of sexual violence, all children are subject to sexual violence, and that includes boys. So we will see male. We have about 15% of our clients are men, so they're male survivors. In terms of then the work in working with perpetrators. We don't do that directly, but we do speak to the government structures about just standards around that and how that should be done, and how sex offenders should be monitored and vetting, for example. 15%. Abbiamo, come noi lavoriamo contro la violenza sessuale, vediamo anche delle ragazzi. Che vengono da noi, che hanno sofferto un abuso sessuale, e nel nostro lavoro incontriamo più o meno il 15% di ragazzi che hanno sofferto abuso sessuale, e con quello lavoriamo. E, per gli uomini che sono aggressori, proviamo di trovare un modo di comunicare con delle istituzioni del governo che noi pensiamo necessario a fare per mettere delle standard di trattamento di questi uomini. Okay. Più o meno. Okay, thank you. We will come back with you. Okay. Do you want, who wants to speak, or maybe we can have some music between? Music. Pareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mis lagrimitas. Una vez más, no, por favor, que cansa y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansa y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio cada vez que me dice puta. Allora, continuiamo un po' la presentazione del nostro ospite oggi. So let's continue the presentation of the our ospite with Gabriela, who is coming from Switzerland. Good evening. I'm working for the network of women shelters in Switzerland and Liechtenstein. I don't know the name. Liechtenstein is very small. They have 30,000 inhabitants, and they also have one shelter for women, so they are associated with us in Switzerland. We work all together, the French part, the Italian part, and the German part. And we have 18 houses with 250 places for women and children, maybe till 14 years old. Allora, io lavoro per il rete nazionale del caso delle donne che contro violenza in Svizzera. Noi abbiamo anche di questa rete fa parte il paese Liechtenstein, si chiama così? Liechtenstein. Là si trova un casa di antiviolenza per le donne e noi lavoriamo in Svizzera con le regioni italiane, francese e tedesca, no? E abbiamo 18 case e rappresentano 250 posti. Posti per le donne, sì. Che domanda. Siete anche, are you also dependent from the government, or are you more working, more independent, or how it works? We are a non-profit and non-government organization. And the most work is on free time part, yes. Yes. So, women who work in the shelters get free time to work on national and international level, and to work also together with the national government. Because in our structure, every canton has his own government, and the shelters has to work together with the cantonal structures. Mm-hmm. Ok, non siamo un'organizzazione che riceve soldi del governo, sono indipendente e anche le donne che lavorano nelle case, nelle centri antiviolenza, ricevono un tempo libero per poter lavorare nella rete nazionale, vuol dire sono delle volontarie. E un punto importante è anche che ognuno cantone, ognuna regione della Svizzera è indipendente e ha la sua modo di lavorare, di come funzionano anche le case e i centri antiviolenza e sono organizzato, devono lavorare sulle strutture regionale, e le donne che lavorano per la rete nazionale anche fanno il lavoro su livello nazionale e internazionale. And the work you do is a work of accoglienza. Accoglienza e supporto. Appoggio, supporto? Supporto. Welcome. To welcome the woman. You do? The national network doesn't welcome women. That we do in our different houses. There we welcome women and their children, and there have safe place to stay. To stay. And to get information, and also to get in German? Oh, I don't know. you can get information about justice, and also campaign by process, and also to organize the situation of your children. Yes. So if you go in a Swiss shelter of women, they look very quick that the children can go back to school. Nella nostra organizzazione della rete nazionale non possono accogliere le donne con i bambini, sono le case che fanno questo lavoro, e le case anche mettono alla disposizione delle donne l'informazione legale che hanno bisogno per poter anche fare delle decisioni. Un punto importante è anche che le bambine che vengono con le mamme, le case trovano molto rapidamente delle scuole dove possono continuare a essere. Ok. You see something more to add that you want to specific? In Switzerland, we have 22% of people who are migrants. And so we see in the shelters in Switzerland, the people or the women with her children who comes, we have a very high percent of migrants. And our laws aren't very friendly in in Svizzera abbiamo un percento, la popolazione consiste, 22% sono delle persone migranti che vengono dall'estero, e così anche nelle case vediamo le donne che vengono dell'estero, e la situazione in Svizzera è che le leggi non sono tanto gentili per queste persone, che per le donne. Yes, or it's you have clearly discrimination of migrants in Switzerland, and so that's also a part of the work of the network to speak with the parliament and speak with the government. Yeah. How could we adapt laws that they that we evident this anti this discrimination of migrants, because and in German oder ist. Es ist eine der zentralen Aufgaben der Dachorganisation der Frauenhäuser mit der nationalen Regierung, aber auch mit den einzelnen Kantonen zu verhandeln, dass die diskriminierenden Gesetze geändert werden. Auf parlamentarischer Ebene arbeiten wir sehr eng zusammen mit Parlamentarierinnen. Und wir haben auch direkten Kontakt mit den Regierungsbehörden. Allora si trova in situazione molto chiaro di discriminazione delle persone dell'estero, e che così un punto importante del nostro lavoro della rete nazionale è di avere delle contatti con il governo, con le politiche, per cambiare la situazione, per ammigliorare le leggi che sono più adattate alla situazione delle persone. Sì, infatti si tratta per esempio della doppia violenza. We speak for example about the double violence. Yes. No, quando una donna è comunque sposata e i suoi documenti dipendono dai documenti del marito, e se il marito la picchia, lei si ritrova senza documenti. This no, they think that when the woman is dependent of the husband for the documents, and she, if she's received violence, she can be without documents because she left the husbands. Yes, for example, this which is clearly the same in Italy. Mm-hmm. Mm. Also, Swiss law is like this, that children who have Swiss passport, but the women don't has a legal resident, her own legal residence in Switzerland. She has to go with her Swiss children in another country. Allora, la legge svizzera dice che quando un ragazzo ha un passaporto svizzero, non può rimanere nella Svizzera in caso che la sua madre non è di nazionalità svizzera. Devono partire tutte e due fuori. Okay. Ok. Facciamo un stacco musicale. Grazie. Casa, comida era tudo que ele queria oferecer. Baladas, minas, cachaça, não deixaram ver. E a vida em família é um conto de fadas. Escolheu, me jogou nessa treta errada. De sonhos minha vida passou um grande inferno. Pros meus filhos sou escudo, armadura de ferro. Correndo contra o tempo eu procuro ajuda. Alguém que entenda o meu sofrimento e apresente a cura. O primeiro passo deve ser dado por mim, para que esse delírio tenha fim. Sofro calada, violência, quero correr. Amarrado sociedade, como romper? Apanho porque sem saber. Uma vida dura sem sentido, pode crer. Pela família fico calada pra manter. E ao fundo do abismo e sobreviver. É de noite e é de dia, como esconder? Continuo nessa vida e não vou morrer. Escondo, seguro o choro, como conter? E ao fundo do abismo e sobreviver. hereditário, mas eu sei que não é isso. O que o pai fez, o filho faz. Inconsequente, inconsciente, se torna normal. Uma prática natural. A violência legal. Não basta proporcionar meios de sobrevivência para que ocorra o fim da violência. Tem que criar mecanismos pra essa mulher lutar, crescer, sobreviver. Que a violência não é legal. A violência não é normal. A violência não é legal. Allora si continua questa mini primer un po' improvvisata di oggi. Abbiamo nei nostri studi quattro compagne che lavorano contro la violenza sulle donne in diversi paesi. E stavamo parlando con Gabriella di Svizzera che ci diceva che una cosa particolare anche in Svizzera è là i numeri delle armi, che quasi quasi ci sono 2.300.000 armi in tutta la Svizzera, quindi quasi un'arma in ogni casa. E ci sono 600.000 maschi che frequentano le club di armi. E questa situazione particolare fa... vabbè. So what I can ask, because I've done... I can ask is... does it mean that you welcome a lot of women who has been shot, for example, from the husband or in the... If they are shot down, you can't receive them anymore. No, but... No. Yes, I think... If we get a phone call in the shelter, yes? One of the first questions is an arm in the house. Yes. Una delle prime domande che chiedono quando una donna chiama, ma c'è un'arma nella casa. Because also... The people in Switzerland are so familiar with arms that even if somebody was criminal, they don't take him away his arm. So if you was in a yes, or if you was in prison, they don't ask for the arm. The arm stays in house, and so. It's very dangerous, and we always ask if there are arms. And chiedono sempre se ci sta un'arma a casa, perché la gente, la popolazione in Svizzera è molto familiare con le armi, e anche quando c'è un uomo che è stato in prigione, violente o per altre ragioni, non è richiesto a dare l'arma. E anche quando c'è uno che è stato alla psichiatria, può rimanere sempre l'arma nella sua casa. È una lotta che comunque provano da fare cambiare, perché il governo fa niente contro questa cosa delle armi, che non sono neanche registrate da nessuna parte, non c'è che c'è, e dunque le armi sono, cioè, dappertutto. I just reset what you said before. Yes, or with 70 non-government organization we made initiative, or in Switzerland with the basic democratic system, you can make an initiative. You have to collect 100,000 signs, and then they have to develop a law who comes in front of all people who can give their vote, and. We got the signs, and we also got this votation in front of the people. but we have lost, maybe we win 40% of the people who give their vote that they won't anymore such uncontrolled system of arms. Abbiamo fatto un'iniziativa con altre 17 organizzazioni, è possibile in Svizzera perché abbiamo un sistema democratico a fare delle iniziative e la popolazione è richiesta a dare la vota. Abbiamo la firma. La firma. Mm-hmm. E abbiamo e quando si raccoglie 100.000 no? firme, mm-hmm. Si può votare una legge e abbiamo proposto che la possessione dell'arma sarà controllata, registrata, ma abbiamo solamente ricevuto 40% delle firme. La maggior parte della gente è contro il controllo. That would mean that if you have 40%, so you have also women who goes and vote, we will disarm at home. Yes. Sure. So the masculinity in Switzerland is so in the heads of the people that for them it's okay to have these arms. And we 2 weeks ago a little boy of 13 was playing with the arm of his father. His father is a policeman, so he has to know, he's a professional. Mm-hmm. And this child play with the arm of his father and shoot himself down. No. So in one way, the people say, we would like to have our arms so we are free to shoot ourselves. And maybe this is okay. But in Switzerland, they talk about enlarged suicide. Enlarged suicide, that is, if a father kills first his wife and his children and then himself. So they don't talk about murder. It's an enlarged suicide. Allora, 40% di vota vuol dire che 60% della popolazione hanno votato contro, vuol dire anche delle donne hanno votato a avere delle armi non controllate, vuol dire che veramente nelle teste di molte, molte persone questo concetto di mascolinità. E anche 2 settimane fa c'è un ragazzo che ha giocato con il fucile del suo padre, che è un poliziotto, e che ha ammazzato se stesse. No? Mm-hmm. Vale, sì, è una situazione che si può dire lasciare le armi a quelle quando si uccidono va bene, ma in Svizzera abbiamo la situazione quando un uomo assassina la sua moglie, la sue bambine, no? Si parla di se stesse alla dopo. Fine si parla di un suicidio. Suicidio allargato. Non di un crimine. Che no, non si parla del che ha assassinato le altre. E questa è una cosa che non va, no? Ok. Vogliamo andare a Monaco? No, rimaniamo vicino alle montagne. Sì, tra Monaco dopo c'è la casa. Hello, I'm Sibylle from the Women's Shelter in Monaco. Sibylle from the Centro Antiviolenza di Monaco. We are not only welcoming women there who suffered violence from their husbands and they take their children, which were also victims. We do supporting and we also do encouraging them to find their new lives in a non-violently way. Noi non solo accogliamo le donne con i suoi bambini per dare una casa dove possano vivere, noi anche vogliamo dare della forza, coraggio e anche una prospettiva a poter vivere una vita senza violenza. And our organization named Women Helping Women, and that's our concept. Nostra organizzazione si chiama delle donne aiutano le donne e questo è il nostro concetto. And it also means that it's not only the bad history of one woman who suffered violence, but we say that it's a big enormous conflict in society. Non diciamo che è solamente la storia di una donna che ha sofferto una violenza speciale, ma diciamo che è un concetto di violenza nella società, o un conflitto nella società. A society machista. Una società machista. And therefore we also are working on a networking and a political way to make it the situation better. Even on the level of money, of economics for women and kids, and on the other hand, also on level of laws. Perché noi troviamo importante lavorare nelle rete e anche per migliorare la situazione punto vista di soldi per le donne e bambine e anche per le leggi. And in the last years, we had a big backlash. Which it's from the ideological of the masculinist movement, and so we had a big backlash, which also changed the laws and the possibilities for the women. So, for example, the sole custody is very difficult to get now. Abbiamo avuto un grande backlash, un passo in atrás. Indietro. Un passo indietro del bastone no. A causa del movimento del masculinista in Germania abbiamo anche ricevuto delle leggi che non migliorano la situazione delle donne e bambine. Per esempio in Germania è molto dura per una donna che a ricevere la guarda sola per il bambino. La guarda sola, custodia. Sì, sì, di prendere lei, di avere lei la cura del la cura figlio del, della figlia. Della, sì. So if you will... Scusami, is it new? It was changing, because in former times it was like this. If the parents separate themselves, you had to give the custody, the sole custody to the parent where the kids live, to the mom normally. Yeah. And she had the sole custody. And then in 98, they changed the law and said parents keep parents. And this is the ideology that even if there has been violence, they have to stay parents and they have to communicate about the kids, because it's a children's right to have both parents. But we think in the terms of violence, it's not the good thing to do. Fino al 98, prima al 98 la situazione è stata così, che in caso di separazione il bambino o la bambina è rimasto dal padre o madre dove ha vissuto, e anche quella persona ha ricevuto la pensione alimentare, la cura sola. O anche la pensione alimentazione, e normalmente è stata la donna. E dopo 98 la legge ha cambiato e si è parlato che un parente rimaste sempre un parente, e il punto della violenza stava escluso, e questa è l'ideologia che si prende spazio adesso. Mm-hmm. And then we have another change, that they said you have to make the law cases quicker. So if one, for example, if the woman is going to our refuge with the kids and the father is going to the court case, then in 4 weeks they have to pass a court case already. So there's very short time to think for the women what they want, and they be confronted at the court case to see their perpetrators again, and have to speak whether the child will have a visitation right with the father or not. Un punto che ha cambiato anche molto è quando una donna viene con la bambina alla casa di donne, non rimane molto tempo per riflessare come continuare la sua vita. Tra 4 settimane si deve prendere la decisione dove è la cura per il bambino. Vuol dire in 4 settimane ci sarà il processo e la decisione se lei riceve la cura o no. No. E questa non dà veramente una percezione, neanche la sicurezza. So we fight a lot for better child protection and also protection for the women in this situation, because there are 70% in this situation of visitation rights of the father, that the women and the child suffer once more violence from the violent father. And we think that is a big gap of child protection. C'è perché noi lottiamo molto per ammigliorare la protezione della ragazza, del ragazzo, anche della madre, della donna, perché il 70% delle persone soffrono molto la violenza durante questo processo dove si deve prendere la decisione sulla cura. E pensiamo che non è una cosa bene per le ragazze, ragazzi, neanche per la donna. And so we did big campaign in all Germany against these new laws, and we had a little bit success that now in the law there is also the possibility to stop visitation rights, but in the practice no one do like this because the ideology is stranger or is bigger. Abbiamo fatto una campagna grande in Germania per ammigliorare la situazione e abbiamo ricevuto un piccolo successo, un piccolo vittorio, né? Si può dire che esiste adesso la possibilità che il diritto alla visita del padre violenta può essere escluso, neanche in pratica non è applicata molto. Perché l'ideologia è molto più forte. And now we are here to gather a European network because we think it's in all Europe a big problem, and we are looking for partners to make some action there on the level of European Council to make better laws. Adesso siamo qui perché noi pensiamo che è un punto molto importante per tutti i paesi europei, anche altri, e noi vogliamo cercare delle donne con quelle possiamo lavorare per anche iniziare delle azioni per ammigliorare la situazione sul livello europeo, anche con la Commissione europea. Okay. Bene, quando... Vamos. Vamos. Azione diretta. Da continua. Fai un stacco. Uno stacco. Wanna go home through the street, but there's a feeling inside your head. Every noise is frightening, even the gate is crying in the yard. What you gonna do when you walk the street at night? What you gonna do when you feel the fears inside? What you gonna do when somebody follows you? Hear the step just behind you. You move much quicker till you. Nobody here. Help a woman late at night who is screaming in the dark outside. What you gonna do when you walk the street at night? What you gonna do when you feel the fears inside? What you gonna do when somebody follows you? What you gonna do when he catches you, when he grabs you from behind? Feel frightened, lose your voice, your body becomes still. You're totally helpless, you're totally lost. Hi, Hermes. Ciao. Ciao. Tu sei venuta da Kassel. Da Kassel, sì. Allora, io vengo in Germania. In Germania, sì, allora, vengo da una casa di donne maltrattata. Siamo un collettivo autogestito da io credo più di 30 anni lavoriamo in questo modo e pensiamo sempre che è un modo molto importante non avere un funzionamento che è autogestita, non ierarchico, anche per poter andare avanti a cambiare la società in una società che è più vivabile che questa società capitalista violenta, anche in Germania adesso molto militariste. Abbiamo molte, vediamo molto forte una crescita. Una crescita, sì, del militarismo e anche degli effetti sulle donne che vivono e che vengono anche nelle case di donne, e ci sono tante a casa che non vengono nelle case, che vivono le stesse cose. Abbiamo questo militarismo e dall'altra parte abbiamo anche un discorso nazionale sulla violenza delle donne che è molto controllato e molto weichgespült. È molto nella lavatrice, quando si fa molto molto centrifugato e non molto chiaro, no? È molto difficile. E allora io vengo di questa casa che fa questo lavoro che anche la Sibille ha raccontato, fanno così, e anche ripresento il coordinamento nazionale delle case delle donne autogestite, e questo coordinamento esiste da 30 anni, abbiamo festato l'anniversario del coordinamento. Il coordinamento delle case delle donne autogestite è anche un'organizzazione di base, non dipendente del governo, non riceviamo delle soldi. Le case invece hanno le sue condizioni, come ricevono soldi, sono in condizione meglio, peggio, è sempre una lotta. Abbiamo anche delle discussioni tra di noi come si farà meglio, ma il coordinamento abbiamo deciso e non riceve soldi di governo per essere più indipendentemente e più libera a dire che vogliamo dire, no? Insieme. E poi un punto che in questo momento è molto importante sono che la situazione per le donne diventa di più difficile, perché un principio è che si deve esistere una rete di possibilità di poter proteggersi. So you can protect yourself. Mm-hmm. E ci stanno di più in più delle condizioni che non permettono alle donne di veramente decidere: io voglio andare a questa città, io voglio andare a questo punto, io voglio andare in Italia. Noi pensiamo che una decisione libera, quando si deve, quando deve uscire dalla casa tua per violenza, non deve essere condizionata di confine, o confine reale, o confine di dinero, o confine di nazionalità, o altre. E questo diventa di più in più importante, e il controllo dello Stato in Germania diventa anche di più in più invasiva, mm-hmm, sul lavoro delle case in questo momento. Bene. No, e la Sibilla ha detto che siamo venuti qui per trovare compagne per poter anche cominciare una discussione sul livello europeo, mm-hmm, per veramente vediamo la necessità di organizzarci insieme. Mm-hmm. E secondo punto, quando posso parlare? Sì? Sì, sì. Se che abbiamo visto in Germania dei processi che, sul stupro. Delle donne hanno denunciato un stupro, il stupristo, il stupratore, stato non un uomo proletario, migrante, no? è stato un moderatore di televisione, è stato un politico, è stato un importante. E tutti questi processi che abbiamo visto i mesi passati, abbiamo avuto confine la situazione che il stupratore non stava condannata, anche quando il giudizio ha detto vediamo che non possiamo dire non ha fatto niente, ma non basta che dice la donna. E ha dato un ambiente in Germania che molte donne che vivono la violenza sessuale non osano più andare avanti a denunciare. Sì, a denunciare di un parte, e d'altra parte vediamo anche che c'è una necessità a organizzarci come donne insieme per supportarci insieme quando una fa una denuncia. E un bel esempio, per esempio, è la situazione della donna in Turchia. In Fethiye c'è una donna che stava stuprato di 8 uomini, e con il supporto di altre donne e altre associazioni femministe sono arrivate le donne lì a aprire il cortile, il corto, e abbiamo visto che come è importante un appoggio diretto delle donne di fuori, che una donna sola in questo processo è molto isolata e molto esposta a tutte le interpretazioni, a tutte le stereotipi, e molto dure. E abbiamo visto di questo esempio in Turchia come bene avere una pubblicità femminista, una pubblicità che fa anche delle azioni dirette avanti il cortile. Mm-hmm. Del tribunale, sì. So, I just have ultima question, because you said all together both that what you were expecting venendo qui a Roma in this convegno organizzato a livello europeo e Africa del Nord un po'. I would like to ask to Kinnan, what do you expect from this? I think, well, it was a very full day and there was a lot of very different things. But one of the things that struck me was that because there was a lot of presentations about Italy and about the position of Italy, and what struck me is I come from a country which has a lot of similarities. Ireland and Italy, we have a lot in common in terms of the Catholic Church and the place of the family and how that works into sexual violence in particular, but also domestic violence. But we have about 60 services in Ireland between a rape crisis centre, domestic violence and support services. Italy has about the same. 60 refuges, I think about 100 services, 60 refuges. And today the minister was saying that Italy, that the Italian government are putting 18.6 million into these services in Italy. In Ireland, we have all those 60 services, we have about 20 million, and it's still not enough. We are 4.5 million people, and Italy is 60 million people. So I think I left with the question, I was wondering, how does this work? Abbiamo visto molte cose oggi durante la conferenza, ma una cosa, e abbiamo anche ascoltato molte cose dell'Italia, della situazione dell'Italia, e mi ha fatto veramente... Mi ha colpito a vedere che noi abbiamo molte cose insieme, Irlanda e l'Italia, la Chiesa Cattolica... famiglia, un terzo punto l'hai detto, sì? E la violenza sessuale, no? che esiste, ma noi abbiamo in Irlanda meno di popolazione, 4 milioni 4.5 milioni in abitanti, ma abbiamo 60 servizi o rifugio o centri antiviolenza o altre, e abbiamo sentito che con 60 milioni in abitanti in Italia ci stanno solamente 100 servizi antiviolenza e 100 servizi e 60 case o 70 rifugi, e che il governo italiano dà 18.6 milioni a questa struttura e noi invece teniamo 20 milioni, e per noi è già non abbastanza per funzionare bene, e mi si chiede come può funzionare qui in Italia. Le compagne ci ne diranno come non funziona. Our companion, our friend will say us how it doesn't function. Gabriella, do you want to say what are you expecting or what are you... I expect another world is possible. Aspetto che un altro mondo sia possibile. If all women believes in their self and they can be strong together. Or we have one example of pornography of children in Italy. And they say 22% of children in Italy would be sexually abused. Yes. But they also have made studies about looking pornographies, and over 90% of the children looking pornographies and also hard pornographies. Mm-hmm. And I believe if all women stay together and look that the education of their children could change, we will also get democratic and feminist and free. Primo punto, credo che un mondo altro è possibile. Sì, no? Vengo per farlo. sì, è possibile quando le donne stanno insieme, organizzano insieme. E un punto è l'esempio della pornografia, che 22% delle bambine in Italia sono esploitato come ha detto la ministra per la pornografia, e che 90% delle bambine guardano nella televisione la pornografia, e poi anche pornografia dure, no? Sì. E sì, tutte le donne si mettono insieme per cambiare l'educazione e la situazione questa situazione pornografica e delle bambine, si cambierà qualcosa. E le donne e le femministe arriveranno alla libertà. I just want to echo that, because I think it's important. We think of the extreme, but it's really important to remember that it starts in the little ways. So it's the culture and society. So when young boys start to play a game where they start to try to basically assault the young girls in the school, this isn't funny, this isn't a joke. So we need to start with the little things and say, sorry, that's not okay. We need to go right back to the so-called little things, as well as think about the extremes, because this is the continuum. Dobbiamo anche tornare alle cose che noi pensiamo forse piccolo. Abbiamo parlato anche molto delle cose grandi, estreme, della violenza estrema. Anche quando i giovani ragazzi cominciano a fare delle giochi dove assaltano i ragazze, non è un gioco, non è una cosa non grave, è già una cosa di cultura di violenza, no? Chi fa parte della società, e si devono vedere queste piccole cose, piccole pizzettine per cambiare. Veramente vi ringraziamo, perché è stata una bella trasmissione. We will thank you very much. It was a really nice and interesting meeting. Nice to come and welcome when you want. To come to know you. Ciao.